Siamo stupiti della velocità con cui è venuto questo lavoro in mano e di riscrittura delle ordinanze per più di 1000 vie, dove il comune ha dovuto giustificare la motivazione per cui la velocità doveva essere abbassata da 50 a 30. Però in un comunicato voi chiedete di osare di più. Sì. Sappiamo che la situazione sia difficile e quindi diciamo apprezziamo quanto fatto dall'amministrazione, ma visto che comunque ci sono delle vie che oggi sono a 50, dove l'anno scorso ci sono stati 9 su 12 dei morti, quindi l'anno scorso sono stati 12 morti e 9 di questi erano su via 50. Su queste vie si poteva fare di più e si poteva fare l'istruttoria anche su queste vie che sono via Toscana, via Emilia Levante, via Massarenti, via Andrea Costa, sono vie che sono in tutto e per tutto nel tessuto cittadino, quindi con grande presenza di bambini, anziani, persone che attraversano sulle strisce, persone che vanno a lavorare in bicicletta. Insomma, i dati di questi 2 anni, la nostra esperienza a Bologna ha dimostrato che se vogliamo evitare che venga ucciso qualcuno sulla strada, spesso sulle strisce pedonali, per quel che si conosce delle dinamiche, senza nessuna colpa, il modo è diventare responsabili e abbassare la velocità, visto che questo non si fa con l'azione dei singoli, è l'amministrazione che deve proteggere le persone sulla strada abbassando il limite in maniera ancora più coraggiosa. Però le strade che hai citato sono considerate, diciamo, grandi arterie di collegamento, non pensi che solleverebbe proteste un abbassamento dei limiti anche su quelle strade? Dobbiamo scegliere se uccidere le persone per strada oppure far lamentare qualcuno. Cioè, alla fine il traffico limita se stesso e in tutte le grandi città, non solo a Bologna, la velocità media è di 17 km orari, 15, dipende dagli orari, quindi non è, diciamo, il limite non cambia nulla di fatto, come dire, nei tempi di spostamento, e questo è stato dimostrato ampiamente dai dati delle scatole nere elaborati da Go Mobility, ma anche se ognuno può fare anche una prova che cosa cambia a fare una strada ai 50 o ai 60, dovendosi poi fermare ai semafori perché ci sono delle altre macchine in coda, oppure farla ai 30. Andare ai 30, diciamo, è una velocità che, cioè, avere il limite massimo dei 30 vuol dire che la velocità media non cambia, ma si livellano i picchi, e quei picchi di velocità che uno fa, cioè, si vede ogni giorno in strada, le persone che accelerano per andare a correre alla prossima coda, al prossimo semaforo. Non serve a nulla questa accelerazione, se non a mettere a rischio le persone che si potrebbero trovare tra la nostra auto e la prossima coda. Nel comunicato del Comune di Bologna, appunto, in cui annunciava questo ripristino, si sottolinea anche che oltre al ritorno del limite a 30 all'ora ci saranno modifiche stradali e anche un aumento della segnaletica, che sono elementi che, insomma, sono stati anche oggetto di critiche nella prima fase, diciamo così, di Città 30. Basta andare fuori da Bologna, andare verso nord e vedere, non so, Parigi, Lione, Berlino, possiamo andare in una qualsiasi città per vedere che sono stati fatti degli investimenti per fare sì che le strade in città non siano delle arterie autostradali, ma siano un po' più strette, abbiano dei marciapiedi più larghi, degli spazi adeguati per le persone per pedalare e camminare, con il doppio vantaggio di dare più spazio a chi va in bici e a piedi, proteggerli e rallentare il flusso delle auto. In queste settimane dalla sentenza del TAR, in cui sono stati di fatto sospesi questi limiti, hai visto un ritorno di velocità elevata o di atteggiamenti pericolosi, o pian pianino, come dire, anche la cultura di Città 30 sta entrando nella testa dei bolognesi? Io lo dico da persona che pedala sia a Bologna che in altre città, sicuramente è cambiato qualcosa, e pedalare a Bologna anche nel periodo in cui sono stati ripristinati i limiti a 50 dava una percezione di maggior sicurezza. Sicuramente però si è visto un pochino la differenza. Ora io per esempio sono in via Zanardi, ho percepito dal 2024, in cui c'era il limite, 2025, dove si è abbassato un po' la guardia in termini di controlli, e questo va detto perché l'abbiamo ripetuto anche nel nostro comunicato, perché è molto importante che chi guida senta la presenza anche dei controlli per autoregolarsi. Si è visto, sì, in questi 2 mesi si è visto un ritorno, insomma, a precedenze non rispettate sulle strisce, una velocità un po' più elevata di prima, ma perché appunto queste cose non si fanno da sole, è necessario che ci sia una comunicazione più ampia possibile, è necessario necessario che tutte le persone siano consapevoli del cambiamento che tutti insieme vogliamo portare, e parte di questo cambiamento deve essere anche la polizia municipale, che aiuta le persone a ricordare che il limite è quello. Questo non vuol dire fare multa, tappeto, intanto non sono sempre state fatte pochissime, vuol dire aiutare, e vuol dire che l'amministrazione mostra attraverso i propri uomini e donne in strada che rispettare questo limite è importante.